ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Effetto giorno di Alessio Maurizi. Emergenza Covid, firmato nella notte il DPCM, stop a feste, gite scolastiche, orari ridotti per bar e ristoranti. Sulla scuola non si cambia, rassicura invece la ministra Azzolina, che dice i contagi non avvengono in classe. A Palermo i commercianti tornano a denunciare il racket nel quartiere di Borgo Vecchio, arrestati 20 tra boss ed esattori dei clan. Vaccino, sperimentazione sospesa per Johnson & Johnson dopo un caso avverso su 60.000 partecipanti. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Dunque, come avete sentito anche nel corso delle scorse edizioni, dopo un lungo confronto del governo con le regioni, ieri notte è arrivata la firma sul nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con le misure che avranno la durata di 30 giorni. Stop a feste private, gite scolastiche, chiusura anticipata per i locali. Queste le principali novità. Sentiamo. Il divieto di feste private al chiuso o all'aperto è una forte raccomandazione ad evitare di ricevere in casa più di 6 familiari o amici con cui non si conviva. È una delle novità principali del nuovo DPCM. Ristoranti e bar dovranno chiudere alle 24, ma dalle 21 sarà vietato consumare in piedi. Quindi potranno continuare a servire i clienti solo i locali che abbiano tavoli. Restano chiuse le sale da ballo e le discoteche, mentre sono permesse fiere e congressi. Torna poi il divieto di gite scolastiche e anche lo stop al calcetto e agli altri sport di contatto svolti a livello amatoriale. Resta per gli spettacoli il limite di 200 partecipanti al chiuso e 1000 all'aperto. Allo stadio consentita la presenza di pubblico con una percentuale massima di riempimento pari al 15% della capienza e non oltre i 1000. Mascherine obbligatorie ovunque, non si sia soli, con le eccezioni già in vigore. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tra le ipotesi emerse nel confronto governo-regioni c'era anche quella di sospendere la scuola in presenza per alcune classi delle scuole superiori, ma dal governo è arrivato il no, in particolare del ministro di istruzione Azzolina. I numeri, ha detto, ci dicono che i contagi non avvengono nelle scuole. Le nuove misure servono ad evitare un altro lockdown. A sottolinearlo è il ministro degli esteri Di Maio all'indomani del via libera al nuovo DPCM. Dopo il confronto con le regioni, il governo ha scelto di lasciare aperte le scuole e non tornare alla didattica a distanza per i liceali, come avevano chiesto alcuni governatori, per evitare un appesantimento dei trasporti pubblici. I numeri ci dicono che i contagi non avvengono dentro le scuole, ribadisce intanto la ministra dell'istruzione. Istruzione Azzolina. Dal centrodestra arrivano invece nuove critiche. Forza Italia chiede risarcimenti per le attività colpite dalle nuove chiusure, mentre il leader della Lega Salvini lamenta uno scarso coinvolgimento delle opposizioni da parte del governo. Gli errori della scorsa primavera dovrebbero far capire che da soli non si va da nessuna parte. Noi abbiamo tutta la voglia, la disponibilità ad ascoltare, a collaborare, a suggerire, a costruire, però se questi a mezzanotte avvisano gli italiani di cosa devono fare alle 8 della mattina, non si lavora così. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora facciamo il punto anche a livello globale, perché oltre all'Italia stringono la cinghia anche la Francia, la Gran Bretagna e l'Olanda. In Europa i paesi più colpiti dal virus sono la Repubblica Ceca, con 493 nuovi contagi su 100.000 abitanti nelle ultime due settimane, seguita da Belgio 402, Olanda 364 e poi Spagna, Francia e Regno Unito. In Olanda, superata la soglia dei 6.500 casi al giorno, e il premier Mark Rutte annuncerà stasera misure restrittive che potrebbero comprendere la chiusura totale dei ristoranti e il divieto di vendita di alcolici dopo le 20. Nella zona di Parigi si prevede la saturazione delle terapie intensive entro fine ottobre e il presidente Macron guiderà oggi un vertice sanitario per organizzare nuove risposte alla pandemia. Intanto arriva un allarme dall'Africa, continente finora meno colpito. Senza misure precauzionali, avvisa il centroafricano controllo malattie, si rischiano 800 milioni di contagi e 84 milioni di morti. Negli Stati Uniti ancora 4 milioni i positivi attuali e oltre 200.000 i morti. Il presidente Trump ha annunciato di essere negativo al secondo tampone e ha ripreso la campagna elettorale. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo in Europa perché l'Unione Europea prova a parlare con una voce sola sull'emergenza Covid, ma non solo. Il Consiglio Europeo ha dato il suo via libera alla raccomandazione per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione delle persone in risposta proprio alla pandemia da Covid-19, che introduce un semaforo a quattro colori: verde, arancione, rosso e grigio, per definire in modo comune le aree a rischio e come spostarsi da un'area all'altra. Anche in politica estera si registrano passi avanti per decisioni europee comuni. Sentiamo quali. Prove tecniche di potenza geopolitica dell'Europa. I 27 ministri degli esteri dell'Unione riuniti a Lussemburgo hanno deciso di applicare sanzioni contro le persone ritenute responsabili dell'avvelenamento dell'oppositore di Putin, Navalny. Una decisione presa all'unanimità, ha sottolineato l'alto rappresentante europeo Joseph Borrell. Sanzioni anche contro Lukashenko per la repressione in Bielorussia, mentre il titolare della Farnesina Luigi Di Maio volerà stasera proprio a Mosca, nel doppio e delicato ruolo di ministro degli esteri e di rappresentante del commercio estero. Ancora nessuna sanzione europea invece contro la Turchia di Erdogan, anche se il ministro tedesco Maas ha invitato stamattina la Turchia a interrompere le provocazioni nel Mediterraneo orientale. Ankara ha appena inviato una nave esplorativa alla ricerca di gas naturale, rischiando di riaccendere una crisi con la Grecia. Proprio 10 giorni fa il Consiglio europeo aveva proposto a Erdogan un miglioramento dell'unione doganale e più soldi per i rifugiati in cambio di una de-escalation. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo in Italia con la cronaca, ci spostiamo in Sicilia, a Palermo. Dopo anni di silenzio, i commercianti del quartiere di Borgo Vecchio si sono nuovamente ribellati al racket delle estorsioni. Hanno denunciato diversi estortori mafiosi, quindi 20 tra boss, gregari ed esattori dei clan sono stati fermati dai carabinieri. Daniele Biacchessi. Buona parte dei commercianti del quartiere Borgo Vecchio di Palermo si sono messi insieme e hanno denunciato chi ogni giorno chiedeva loro il pizzo attraverso minacce e violenza. Qui sta la novità di oggi nella lotta contro le cosche. Questa volta gli emissari mafiosi sono 20 tra capi clan, portaborse e prestanome, finiti oggi nelle maglie della giustizia. Tra i boss spicca il nome di Angelo Monti, reggente della famiglia del Borgo Vecchio. La sua è una storia ordinaria nelle vecchie e nuove logiche mafiose. Scarcerato 3 anni fa è tornato a guidare, anche come sorvegliato speciale, il mandamento di Porta Nuova, la cui forza sta proprio nel business delle estorsioni, che colpisce soprattutto piccoli e grandi commercianti di Borgo Vecchio. Le mafie si sentono più sole se le vittime del racket denunciano pubblicamente i loro carnefici, ma le vittime non devono sentirsi mai isolate, devono trovare il coraggio e ottenere la protezione adeguata da parte dello Stato e la solidarietà della società civile. La pagina economica adesso con le audizioni, l'audizione del ministro dell'economia Roberto Gualtieri oggi in Parlamento a proposito della nota di aggiornamento al DEF. Gualtieri ha confermato, tra le altre cose, una riforma del fisco da farsi in 3 anni e che partirà dal 2021. Sentiamo. La riforma del fisco si farà nei prossimi 3 anni, ma a partire dal 2021, annuncia il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, ci sarà l'assegno unico per i figli. La riforma sarà introdotta attraverso una legge delega che si raccorderà all'altra riforma ad essa strettamente connessa, che intendiamo anche adottare già a partire dal 2021, la legge delega che riguarda appunto l'introduzione dell'assegno unico universale per i figli. La riforma complessiva del fisco, spiega Gualtieri durante l'audizione sulla nota di aggiornamento al DEF, sarà strutturata in diversi moduli e il principale, ossia la riforma dell'IRPEF, sarà operativo dal 2022. L'anno prossimo, assicura il ministro, le tasse non aumenteranno ma si ridurranno perché ci sarà a regime per 12 mesi la riduzione sostanziale dell'IRPEF con l'estensione della riduzione del cuneo fiscale e la fiscalità di vantaggio per il Sud. Il governo, dice Gualtieri, sta anche valutando una proroga della moratoria su crediti per le imprese in scadenza il 31 gennaio. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Torniamo a parlare di Covid facendo il punto sulla situazione per quanto riguarda i vaccini, dopo che su quello in sperimentazione da parte di Johnson & Johnson è arrivata una sospensione a causa di una manifestazione avversa su uno dei 60.000 partecipanti. Anche questa volta sarà una commissione indipendente a capire se è collegata al vaccino oppure no. Nuovo stop nello sviluppo del vaccino contro il coronavirus, stavolta per l'americana Johnson & Johnson, che ha sospeso la sperimentazione dopo che uno dei volontari che partecipava allo studio si è ammalato per cause ancora da verificare. Così come già accaduto al vaccino di Oxford dell'AstraZeneca, la Johnson & Johnson ha deciso perciò di mettere in pausa la ricerca, comunicando lo stop a tutti i ricercatori coinvolti e ai 60.000 volontari impegnati nella fase 3 della sperimentazione, l'ultima necessaria per ottenere la approvazione dalle autorità sanitarie. Pensare che proprio pochi giorni fa la Johnson & Johnson aveva sottoscritto un accordo con l'Unione Europea per 200 milioni di dosi del suo candidato vaccino, uno dei 9 in fase 3 e l'unico monodose al momento. In Europa ci sono almeno 10 milioni di fiale già pronte, che diventeranno 20 entro la fine dell'anno. Di queste, almeno 3 sono destinate all'Italia, ma senza l'ok dell'Agenzia Europea del Farmaco non saranno utilizzabili. Mosca, infine, sostiene che il vaccino Sputnik potrebbe essere presto reso disponibile in Russia, ma su questo la comunità scientifica resta dubbiosa. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il Covid colpisce anche il Giro d'Italia. 2 corridori e 6 persone degli staff sono risultati contagiati. I ciclisti sono uno del team Sunweb e uno del team Jumbo-Visma. Sono stati affidati ai medici delle rispettive squadre, che ne hanno disposto l'isolamento. Quanto agli altri 6 componenti degli staff delle squadre, 4 appartengono alla Mitchelton Scott, 1 al team AG2R, la Mondiale, e 1 al team Ineos Grenadier. Anche per loro sono scattate le misure di isolamento. Il direttore del Giro ha detto: il nostro obiettivo a questo punto è comunque arrivare a Milano. E c'è una positività anche nel mondo del calcio. Poco fa, riguarda Bonera, un collaboratore dell'allenatore del Milan Pioli. Tutti negativi gli altri tamponi in casa Milan, così come negativi i tamponi anche in casa del Napoli. Queste le notizie di oggi, ne parleremo ancora nella seconda parte di Effetto Giorno alle 13:12. Noi facciamo un piccolo break, torniamo da tra poco con tutte le altre notizie. Ripartiremo dal DPCM, perché le misure, le novità principali riguardano soprattutto gli orari di chiusura di bar e ristoranti. Ripartiremo da questo. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Effetto Giorno. Ecco le notizie di oggi. Emergenza Covid, firmato nella notte il DPCM, stop a feste, gite scolastiche e orari ridotti per bar e ristoranti. Sulla scuola non si cambia perché i contagi non avvengono in classe, rassicura la ministra Azzolina. A Palermo i commercianti tornano a denunciare il racket, 20 arresti tra boss ed esattori dei clan. Vaccino, sperimentazione sospesa per Johnson & Johnson per un caso avverso su 60.000 partecipanti. Le 13:16, eccoci di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Proviamo a spiegarvi il nuovo DPCM firmato ieri notte. Le misure sono valide dal 14 ottobre, cioè da domani, fino al 13 di novembre, un mese dunque. Tra le principali novità ci sono gli orari per bar e ristoranti, ne parleremo approfonditamente tra poco. Prima però un'occhiata anche al resto. Sono vietate nei locali le feste, sia al chiuso che all'aperto. per i pranzi e le cene, comunque insomma le cerimonie legate a, per esempio, a matrimonio, a battesimi, a cerimonie religiose, il governo ha introdotto un limite di 30 invitati. Per quanto riguarda invece le abitazioni private, non c'è un divieto, non si è voluto inserire nessun tipo di divieto nelle case private, ma una raccomandazione forte a ricevere non più di 6 persone non conviventi all'interno della propria abitazione. Il DPCM sospende anche le gite scolastiche, lo sport amatoriale di contatto, calcetto, basket, però rimangono aperte le palestre, così come si può continuare a praticare lo sport agonistico. Gli stadi possono riaprire con una capienza massima pari al 15% dei posti, per un massimo, comunque, come fino ad ora è stato, di 1000 persone all'aperto, 200 al chiuso. Sono gli stessi limiti che valgono anche per gli spettacoli, cinema, teatri, sale concerto, pur nel rispetto della distanza dei posti a sedere. Sulle mascherine non cambia niente, quello che è già stato detto, obbligatorie sia al chiuso, fuori dalle proprie abitazioni, sia all'aperto, a meno di non essere in grado di stare continuativamente isolati, oppure se si fa attività sportiva e jogging, ma non la camminata. E sui bar e ristoranti arriviamo alla novità principale. Il governo ha deciso di introdurre delle fasce orarie per la vendita di cibo e bevande. Dovranno chiudere dopo la mezzanotte, dalle 21 in poi potranno continuare il servizio soltanto al tavolo, ai clienti seduti, che siano all'interno o all'esterno dei locali. Quindi il decreto vieta anche di sostare in piedi davanti ai locali dopo le 21. Ne parliamo con Roberto Calugi, che è il direttore generale della FIP, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, di Confcommercio. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori. Allora Calugi, alla fine le novità principali riguardano quasi esclusivamente il vostro settore. Come accogliete queste misure che vengono, diciamo, definite necessarie per evitare misure peggiori, un nuovo lockdown? Ma guardi, io amo sempre citare i numeri, perché ovviamente non possiamo che accogliere questo provvedimento con un senso di scoramento che ormai non conosce limiti. Io prendo i dati della Protezione Civile. Lei sa che i bar e i ristoranti hanno riaperto il 18 di maggio. Ora vorrei chiedere a qualcuno dei suoi radioascoltatori se ha notato un picco pandemico, sempre basandomi sui dati della Protezione Civile, a giugno o a luglio. Questo non mi sembra sia accaduto. Lo dico perché continuare a pensare che il luogo dell'untore sia da destinare solamente ai bar e ristoranti, che sono devastati, uso questa parola non in maniera impropria, da questa pandemia, che solo quest'anno stanno rischiando di veder chiudere 50.000 imprese. Qui siamo, come dire, a un rischio di disoccupazione di 350.000 persone. Avere un provvedimento del genere non è solo economicamente dannoso, ma è anche inutile da un punto di vista pandemico, per quello che vi dicevo prima. Credo che sia abbastanza evidente dai dati che qui probabilmente si è avuto un ritorno della curva più per il movimento delle persone, per i trasporti pubblici, per la riapertura del sistema scolastico. Addebitare questo al sistema dei pubblici esercizi ci sembra davvero perlomeno ingiusto, ma su tutto, se posso permettermi, sì, è inaccettabile che si continui ancora ad adottare provvedimenti di questo genere senza dall'altra prevedere delle forme di ristoro economico. Noi da domani ci ritroveremo con migliaia di piccoli imprenditori che dovranno semplicemente chiudere e non riaprire mai. Io spero che qualcuno se ne assuma la responsabilità. Ecco, in questo caso le novità principali riguardano, diciamo, l'orario, no? L'orario di chiusura, perché il cambiamento più grosso credo che sia per i locali che vendono, i locali della vita notturna che vendono alcolici, perché i ristoranti con una chiusura entro la mezzanotte dovrebbero riuscire a garantire il servizio, forse non una seconda tornata di cene sul tardi, soprattutto nel fine settimana. Le chiedo effettivamente, diciamo che aggiungo anche che bisogna dire che fino ad oggi nei ristoranti, bar e ristoranti, non si segnalano casi particolari di focolai. Laddove si sono rispettate le regole non è successo niente, si è riusciti a convivere con il virus, a far stare le persone a cena tranquillamente, chiaramente con spazi diversi, organizzazioni diverse, ma bisogna dire che non ci sono casi di cronaca di questo genere, focolai legati a bar e ristoranti. Ma si poteva lavorare diversamente, cioè si poteva arrivare a questa stretta che appare, diciamo, dal governo motivata come necessaria, perché comunque la risalita dei casi c'è stata, qualche cosa occorreva fare. Per voi cosa si poteva fare di diverso? Ma guardi, 30 secondi per dirle due cose. La prima, il Dipartimento di Salute inglese ha radiografato, diciamo così, l'origine del contagio. Bar e pub contano per il 3%, fatto 100 il totale, mentre il sistema appunto scolastico e il sistema dei trasporti hanno pesi ben maggiori. Questo per rispondere e confermare quello che lei diceva prima. Cosa si poteva fare? Beh, una cosa molto semplice: chi sbaglia paga, aumentare i controlli, ma non solo i controlli dentro i locali, ma fuori dai locali. Lei sa quanti insulti ci siamo presi da parte di ragazzi o avventori a cui chiedevamo di mettere la mascherina? Certo. Allora, non si può lasciare l'ordine pubblico in mano a chi deve semplicemente gestire un'impresa. Dall'altra, non si può neanche, come dire, derogare al principio di controllo del territorio, perché non siamo in grado di controllarlo, allora chiudiamo le attività. Rischiamo qui davvero di fare di aggiungere danno al danno e come dire, in questo momento stiamo lasciando migliaia di operatori e migliaia, decine di migliaia di occupati veramente in una situazione di difficoltà estrema. Le faccio una provocazione: prima le ho parlato di 350.000 a rischio di disoccupazione, ma se fossero stati 350.000 operai metalmeccanici, cosa sarebbe successo? Probabilmente c'è una sottovalutazione dell'importanza economica di questo settore. Noi siamo abituati a pensare al bar come luogo di svago. È un'impresa a tutti gli effetti. Un ristorante occupa 50-60 persone a volte. Un bar 10 persone se rimane aperto. E questo è il cambio di mentalità che noi chiediamo al governo. Considerare queste come attività economiche, che peraltro hanno un processo occupazionale che spesso e volentieri riguarda fasce deboli della popolazione. Cosa facciamo a queste 350.000 persone che necessariamente dovremo mettere in mezzo alla strada, oltre ai nostri imprenditori? Gli diamo a tutti il reddito di cittadinanza? E questa è la domanda a cui ci dovremmo porre. Per cui non aver investito su maggior presidio della forza dell'ordine, maggior controlli e punire più severamente chi sbaglia, invece che punire tutti in maniera indiscriminata, questo secondo noi è un approccio perlomeno inutile, se non miope. Grazie Roberto Calugi, grazie per essere stato con noi. Diciamo che è ancora possibile seguire la linea del ragionamento di Calugi nella parte finale, quando dice: facciamo più controlli, sanzioniamo chi non rispetta le regole e però teniamo aperte le attività commerciali. È ancora possibile farlo anche adesso, credo. Alle 13.24 invece apriamo un'altra finestra e torniamo a parlare, come abbiamo già fatto anche la settimana scorsa, di un tema che insomma, sta emergendo sotto traccia, ci sta molto a cuore, perché parliamo delle ricadute sul disagio mentale delle persone, sulla fragilità psicologica di molte persone dal momento del lockdown in poi. Ancora adesso siamo tornati a fare una vita più o meno normale, più o meno, questo è molto presente. In questo caso parliamo di dipendenze da alcol, ma anche da internet, dal gioco e naturalmente dalle droghe. Cristina Carpinelli. Noi con la crisi economica del 2008 abbiamo registrato un aumento di persone che a 30 anni, senza aver utilizzato prima, hanno cominciato a utilizzare sostanze e sono diventate tossicodipendenti. Noi siamo molto preoccupati della crisi post-lockdown. Ci racconta così Pietro Farnetti di Fondazione Eris, che si occupa di recupero dalle tossicodipendenze. La crisi economica post-lockdown e l'aumento collegato alle dipendenze è in effetti un tema che si sta tenendo sotto controllo anche a livello europeo, partendo da un'analisi di ciò che è stata l'esperienza della quarantena, come ci spiega Emanuele Scafato, vicepresidente della Federazione Europea sulle Dipendenze. Alcuni dei comportamenti a rischio che sono connessi alle dipendenze sono stati sostanzialmente modificati. È ovvio che chi aveva già problemi di connessione videogiochi oppure sulle scommesse, ma anche per quanto riguarda, diciamo, il tipo di nucleo familiare, i single sono stati più esposti, non avendo un freno di un partner o di una presenza di una persona, di un convivente in casa, è stato sperimentato alla fine del lockdown che molte di queste persone si sono ritrovati con problemi sia di disturbi da uso da alcol, sia da eccesso di uso di internet. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ieri vi abbiamo raccontato, a proposito della app Immuni, il caso sollevato dal giornalista Ferruccio Sanza, adesso eletto in consiglio regionale ligure, è stato candidato alla presidenza, sconfitto da Toti, ma insomma ha sollevato questa questione qua, perché secondo quello, la sua testimonianza, le ASL liguri non sarebbero a conoscenza dell'app, del funzionamento, in caso di positività non hanno attivato positività del figlio di Ferruccio Sanza, non hanno attivato il sistema di tracciamento. Lo scopo per il quale è nata questa app sarebbe davvero un bel problema, perché l'app da sola non basta, ci vuole la collaborazione del sistema sanitario. Oggi però, l'avevamo promesso, torniamo a parlarne di Immuni con il nostro collega Enrico Pagliarini. Ciao Enrico, buongiorno. Buongiorno, ciao a tutti. Conduttore naturalmente 2024, che di questa questione di Immuni ha raccontato vita, morte e miracoli, e però poi ti è capitato anche, ti capita oggi, di poter raccontare sì, un'esperienza personale diretta, che in questo caso dimostra anche un po' il contrario, no, di quello che abbiamo detto ieri, cioè che se la collaborazione tra la app e il sistema sanitario c'è, tutto fila liscio. Che cosa ti è capitato a te, Rico? Il lunedì 5, quindi lunedì della settimana scorsa, prendo in mano il telefono la mattina, vedo una notifica di questa applicazione che mi dice con un bel colore rosso: esposizione a rischio, Immuni ha rilevato che il giorno 30 settembre sei stato vicino ad un utente Covid-19 positivo. Allora, ovviamente ho avuto qualche momento così di smarrimento, un po' di panico, ho detto oddio, però visto che tengo, ma anche per lavoro, tutti i sistemi di geolocalizzazione sul mio smartphone, sui miei smartphone attivi, sono andato a ricostruire che cosa ho fatto quella giornata, perché ho detto ma che cosa ho fatto il 30 di settembre. Sono venuto al lavoro, insomma, ho ricostruito la giornata, sono partito, come ho viaggiato, dove sono stato, eccetera, eccetera, e in effetti ho detto, ma forse per pranzo potrei essere stato vicino ad una persona, quindi era plausibile che quel giorno... Cioè, era in un luogo pubblico e quindi poteva essere, sì. Esatto. L'applicazione segnala un'esposizione a rischio nel caso che la persona con cui tu sei stato vicino poi risulti positiva al Covid, ovviamente, se tu stai per almeno 15 minuti a meno di 2 metri, quindi era plausibile. Allora, a quel punto ho informato il medico mi ha dato un numero di telefono dell'ASL. Io quella settimana ero tra ferie e smart working nella mia casa di Modena, normalmente vivo a Milano ma ogni tanto sono a Modena, mi verrebbe da dire per fortuna, perché sapendo i tempi dei tamponi lombardi almeno io sono ancora qui, oggi pomeriggio verrò in radio, io ho fatto tutto in due giorni, direi tre giorni, ho avuto il risultato, perché il giorno dopo la prima chiamata hanno preso l'appuntamento, il secondo giorno ho fatto il tampone e il giorno dopo ancora avevo il risultato. Cioè in tre giorni negativo, dalla notifica al risultato del tampone negativo, è abbastanza rapido come tempo. Questo è un messaggio anche, scusa Enrico, è un messaggio anche di, come dire, tranquillizzante, perché molti temono forse anche di utilizzare l'app perché in caso di contatti con un positivo dice oddio, inizia un'odissea che non si sa quando finisce, invece tre giorni non sono tanti. Corretto. No, in effetti questi sono tempi che dovrebbero essere i tempi che uno si aspetta per fare un tampone. Devo anche dire che mi hanno fatto una sorta di triage telefonico e io ho raccontato tutto quello che avevo fatto in quella giornata, molto probabilmente visto il racconto e visto che non avevo tenuto comportamenti particolarmente a rischio, io sono sempre prudente, uso sempre la mascherina dove ovviamente è obbligatorio. Confermo tutto, questo sì. Il medico che era al telefono probabilmente ha capito e non mi ha messo in isolamento fiduciario, tant'è che io non, il mio medico non mi ha dato la malattia, quei giorni ho aspettato, quindi capisco che in quelle regioni dove i tempi sono un po' più lunghi ci sia questo tema e questo problema, però la mia esperienza è un'esperienza positiva. Che dimostra invece il contrario. Senti Enrico, un'ultima cosa, in pochi secondi poi ci salutiamo, però i dati ufficiali, no, usciti qualche giorno fa, adesso non so esattamente qual era la fonte, ma credo che tu lo sai qual era la fonte. Ministero dell'Innovazione e Salute. Ecco, 8 milioni di download, però soltanto 13 casi positivi scoperti grazie all'app. Che cos'è che manca invece proprio per, tornando anche un po' al caso di Sanza, o a cos'altro può non aver funzionato? Perché sembrano pochi i casi scoperti da un'app scaricata da 8 milioni, e non sono pochi 8 milioni. Sì, allora diciamo innanzitutto che alcuni di questi milioni sono stati download delle ultime settimane. Non sappiamo, e questo sarebbe un dato che effettivamente i ministeri dovrebbero dire perché loro lo sanno, quante di queste applicazioni sono attive. È un dato importante perché un conto sono i download. Io ad esempio ho due smartphone, ce l'ho su due smartphone, valgo già per due, ho fatto due download, poi ci saranno quelli che l'hanno provato eccetera. Mi sembra che la parte sanitaria, perché l'app da sola può fare, perché ecco, devo dire, visto che solo tu sai di questa notifica, perché la privacy è garantita al 100%, tu sì, potresti anche ignorarla e quindi non poi chiamare l'ASE e fare il tampone. Allora, quel pezzettino può comunque essere utile per te, perché tu comunque alzi le antenne e dici: aspetta, ho ricevuto questa allerta, non voglio entrare in un tourbillon che magari mi potrebbe portare ad una quarantena. Però magari mi isolo un attimo. Bravissimo, o comunque adotto un comportamento più ancora attento, più prudente. Ecco, questo è. Dopodiché, rispondendo alla tua domanda, io penso che i ministeri, innovazione che ha creato l'applicazione, e salute forse si dovrebbero parlare di più, perché i casi in cui il personale sanitario non sapesse cosa fare di fronte ad una segnalazione di Immuni, queste sono segnalazioni che ci sono state, quindi quelle sicuramente sono un problema. Poi in generale devo anche dire, stiamo parlando di un grandissimo esperimento, queste applicazioni esistono in buona parte d'Europa e un po' in tutto il mondo, simili a quella italiana. Non possiamo sapere ad oggi se questo tipo di contact tracing digitale funziona veramente molto bene. Lo sapremo forse tra qualche mese. Ci stiamo provando, milioni, insomma, di persone. Ecco, io, quindi questo è un grande esperimento. Faccio questa sintesi, ci stiamo provando. Grazie Enrico Pagliarini, grazie per essere grazie stato voi con noi, per averci raccontato buona la tua giornata, esperienza diretta su questo. 13:33 minuti, noi facciamo un piccolo break, torniamo tra poco. 349-238-6666. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Emergenza Covid, firmato nella notte il DPCM, stop a feste, gite scolastiche, orari ridotti per bar e ristoranti. Donald Trump riprende la campagna elettorale. Sono guarito, vi bacerò tutti, dice, ma il virologo Fauci lo stoppa e a caccia di guai. A Palermo i commercianti denunciano il racket, 20 arresti tra boss ed esattori dei clan. Al cinema per tre giorni il film Inchiesta, il caso Pantani, l'omicidio di un campione, dal doping con l'ombra delle scommesse all'epilogo del pirata. Ne parliamo tra poco. 13:39 minuti, cari ascoltatori, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Velocemente con qualcuno dei vostri messaggi al 349-238-6666. Un ascoltatore dice che secondo lui si sono scoperti pochi casi di Covid grazie alla app Immuni, 8 milioni di download, perché secondo lui chi utilizza la app è anche chi ha dei comportamenti più virtuosi e più attento. E questa è un'interpretazione, così diciamo, originale, ma è possibile. Poi ci sono due ascoltatori almeno che ci tengono a sottolineare che anche in regione Lombardia, visto che Pagliarini adombrava questo dubbio due giorni in Emilia-Romagna, chissà quanto ci sarebbe voluto per avere l'esito in Lombardia, dice no, anche in regione Lombardia ha ricevuto l'esito del tampone il giorno dopo all'ospedale San Paolo di Milano, dice un ascoltatore, ma ce ne sono altri. Così 13:40 è il momento di ascoltare il vice direttore del Sole. Il punto di Alberto Orioli. La pressione fiscale reale, come l'umidità percepita in certe giornate di scirocco, è al 48,2%, ben 5,2 punti in più del dato con cui l'Italia si presenta in genere alle classifiche internazionali sulle tasse. Lo hanno rilevato prima il Centro Studi Confindustria, poi i commercialisti. L'IRPEF, l'imposta sulle persone fisiche, in sostanza la tassa che grava sul lavoro dipendente, copre il 34,2% del gettito complessivo, con 176 miliardi. L'IVA, l'imposta più evasa, è a 118. Inutile girarci intorno, il fisco in Italia usa il lavoro dipendente come pecora da tosare e non è un caso che il nostro paese sia al quinto posto quanto a pressione IRPEF e al 26esimo quanto a peso dell'IVA nella classifica europea a 27 paesi. Quando l'Europa ci dice che bisogna spostare la tassazione dalle persone alle cose, non dà un cattivo consiglio, anche perché questo sistema consente al sommerso di prosperare, che, sia detto non troppo tra parentesi, vale 215 miliardi e a proposito di pressione fiscale percepita, porta il tasso ad oltre il 50% per le persone per bene, perché è chiaro che pagano anche per gli evasori. Allora, è in sala, in alcuni cinema, per soli 3 giorni, un film inchiesta, il caso Pantani, l'omicidio di un campione. Ne parliamo con il regista di questo film, Domenico Ciolfi, benvenuto. Ciao, grazie a voi. Allora, un film inchiesta sulla storia di Marco Pantani, il campione, il grande campione di ciclismo morto a Rimini, lo ricordo, nel febbraio del 2004, a soli 34 anni, dopo una lunga fase di depressione e anche di uso di droghe, seguita alla squalifica per doping. Qui inizia il film, il tuo film, avvenuto a Madonna di Campiglio nel 99, quando Pantani era un passo in cima alla gloria, un passo alla conquista del Giro d'Italia. Un film che ha una tesi ben precisa: Pantani è stato fregato, la provetta con l'ematocrito è stata sostituita forse da chi voleva fare una scommessa sulla sua sconfitta. Domenico Ciolfi, una tesi questa sostenuta da Pantani, familiari, gli amici, è affiorata anche nella verità giudiziaria, ma mai emersa chiaramente. Perché avete scelto invece questo punto di vista in maniera molto netto? Ma perché è uno studio che va avanti da oltre 6 anni. Questo è un film necessario per rimettere un attimo in ordine le cose, soprattutto per ristabilire la verità dei fatti. Fai conto che questo è un film che ieri sera ha esordito in Italia ed ha esordito direttamente al primo posto dei film più visti in Italia nella giornata di ieri, in oltre 300 sale distribuito. Dunque c'è molta richiesta per sapere cosa sia successo a Marco Pantani. Certo. Tu parlavi prima di Madonna di Campiglio. Madonna di Campiglio, Marco Pantani viene fermato perché ha un valore dell'ematocrito superiore a quella che era la misura che si erano accordati tra CONI e ciclisti, dunque del 50%. Sì. Non c'è una coda di doping perché non era possibile fare degli esami approfonditi. Allora si era deciso questo escamotage per, diciamo, proteggere la salute degli atleti. In realtà quell'esame lì, già nel momento in cui era stato fatto, mostrava degli elementi che poi nessuno approfondì successivamente. Cioè il fatto che le piastrine di quell'esame non corrispondevano con il valore dell'ematocrito di Marco Pantani, che infatti nell'analisi prima e nell'analisi dopo non soltanto aveva un ematocrito regolare, ma quello tutto sommato può rientrare in poche ore. Ma le persone chiedono molto più tempo per rientrare, dunque quell'esame andava già rifatto allora. E questa cosa poi emerge anche nei procedimenti giudiziari che lo riguardano, ma che vengono in realtà basati su una legge che era stata fatta per le corse dei cavalli, cioè per le scommesse clandestine, non per le irregolarità dei corridori. E Pantani esce sempre pulito da tutte queste inchieste. Ma qual è oggi, Domenico Ciolfi? Poi adesso parliamo anche un po' del film, che ha 3 protagonisti nelle 3 fasi diverse della vita di Pantani: atleta, e poi nella fase della depressione, dell'isolamento, diciamo così, e poi negli ultimi giorni. Ma la verità giudiziaria adesso sul caso Pantani, e qual è? A che punto siamo? Allora, su Madonna di Campiglio ci sono state delle rivelazioni molto importanti di alcuni camorristi che hanno scoperchiato il fatto che ci fosse un interesse importante dalla parte della Camorra per truccare quel Giro d'Italia. Questi sono agli atti, dunque questa è una cosa che il film spiega e documenta molto bene. Poi c'è la faccenda di Rimini, perché il film parte appunto dal 99 ed arriva fino alla morte di Rimini nel 2004, una morte che già a me, quando la vidi in diretta, non mi convinse particolarmente, sembrava veramente un racconto perfetto per essere raccontato al cinema, no? Il rise and fall di un personaggio famosissimo che poi crolla nella depressione, nella droga, un po' come tanti film americani dove trovi poi l'eroe morire a Las Vegas in un motel. La storia era molto simile, ma già allora mostrava degli elementi concreti che facevano pensare a una tesi diversa. E il film ripercorre tutti gli atti giudiziari, siamo andati a investigare i luoghi, tutte quante le persone, e abbiamo scoperto una verità molto diversa, con prove documentate nuove. E devo dire che la voce, ma anche il ruolo interpretato da Pannofino, che fa l'avvocato, no? Che diciamo puntella tutta la vicenda del film con la lettura proprio degli atti, quindi un lavoro proprio di inchiesta notevole da questo punto di vista. Però è anche un film godibile, io l'ho visto, lo dico per invitare ad andare in sala a farsi un'idea, anche chi magari non ha sposato questa tesi, però la vita di Marco Pantani sicuramente merita un approfondimento come questo di due ore. Dicevamo, tre sono i personaggi: Pantani atleta, e sono tre attori diversi. Pantani nell'esilio dopo la squalifica per questo doping, e poi gli ultimi giorni, l'isolamento, quando poi si chiuse in questo albergo di Rimini dove trovò la morte. Domenico Scioffi, ti chiedo, cos'è una cosa che hai scoperto scavando nella vita del pirata che ti ha anche sorpreso rispetto a un po' a tutta questa vicenda? Ma mi ha sorpreso, appunto, come dici tu, Brenno Placido, Marco Palvetti e Fabrizio Ronzoni raccontano questi tre stati d'animo, no? Psicologici molto diversi di Marco Pantani. Mi ha sorpreso come questo ragazzo si sia ritrovato solo nelle sue paure, nei suoi fantasmi, quando è stato messo in dubbio invece il talento più importante che aveva. Diceva Gianni Mura, che è scomparso purtroppo pochi mesi fa, che la storia di Pantani gli ricordava un po' la vicenda dell'ermellino, no? Che quando vede una macchia sul suo mantello bianco è una cosa che lo fa star male, lo può portare anche alla morte. E così è successo a Pantani: il fatto di vedere macchiata la sua dignità, il fatto che la gente potesse, come è avvenuto immediatamente dopo andare di Campiglio, urlargli dalla macchina che gli passava accanto: sei un dopato, quando lui sapeva benissimo che tutto quello che aveva ottenuto era solo grazie al suo talento. Ecco, questa cosa probabilmente non l'ha mai superato. Marco Pantani è morto la prima volta a Madonna di Campiglio e la seconda a Rimini. Grazie Domenico Scioffi, grazie per essere stato con noi. Ricordo il film ancora oggi e domani in molte sale italiane, Il caso Pantani, l'omicidio di un campione. 349-238-6666, se volete commentare anche questo. Vi ricordo che poi Francesco Pannofino, che è nel cast di questo film, sarà anche ospite di tutti i convocati nella seconda parte alle 14:35. Piccolo break, torniamo tra un attimo. Effetto giorno. Eccoci qua alle 13:50 minuti, oggi non c'è cioè effetto mondo, quindi non c'è la lettura dei giornali internazionali con Giulia Crivelli, però teniamo aperta la pagina delle notizie internazionali con Giampaolo Musumeci. Ciao Giampaolo, ben ritrovato. Ciao Alessio, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Che ci dà qualche primizia del programma del pomeriggio, naturalmente come ogni pomeriggio alle 16 nessun luogo è lontano. Giampaolo, quali notizie sono entrate nei vostri radar oggi? Ma oggi ci concentriamo sull'Afghanistan, è un po' che non ne parliamo, ma come tutti noi ormai sappiamo, dopo i colloqui di pace a Doha tra governo statunitense e talebani sono iniziati quelli intragovernativi, quindi i talebani starebbero, parlando col governo di Ashraf Ghani. Però sul terreno le cose sono molto diverse. Da domenica nella provincia di Helmand, siamo nel sud dell'Afghanistan, ci sono violentissimi scontri tra forze di sicurezza afghane e talebani, appunto. E quindi partiremo da lì con le voci degli operatori sanitari che sono in prima linea, che ci daranno un bilancio di questi scontri così feroci. Poi proveremo a mettere il grand'angolo, come amiamo dire noi, nel senso che da un lato faremo il punto, lo stato dell'arte di questo fragilissimo paese che si avvia una nuova era, perché bisognerà capire i talebani che ruolo giocheranno in futuro anche a livello governativo, e poi come stanno vivendo le elezioni statunitensi, perché dobbiamo ricordare che il merito di questi colloqui di pace sono da attribuire al presidente statunitense Donald Trump. Ed è interessante, Alessio, ti segnalo un paio di tweet e un paio di agenzie, nonché di interviste alla CBS che risalgono ormai al 7 ottobre, in cui c'è stato uno strano endorsement, forse quello che Donald Trump non avrebbe mai voluto ricevere. Insomma, i talebani hanno detto che si augurano che il presidente statunitense rivinca le elezioni. Addirittura uno dei portavoce intervistato da CBS ha detto: quando abbiamo saputo che era positivo al Covid ci siamo allarmati. Immediatamente dopo Trump, ma questa non è vera, dai, questa non è vera. Sì, è vero. Tanto che a un certo punto l'amministrazione di Trump ha dovuto smentire il fatto che il presidente, come dire, accettasse questo endorsement, ribadendo che Trump e la sua amministrazione lottano per la stabilità del governo in Afghanistan. Tanto che persino il portavoce dei talebani ha dovuto rettificare dicendo che in realtà la CBS aveva travisato le sue parole. Al di là di questa schermaglia, come dire, in odore social e radio, è evidente che anche in Afghanistan si guarda con estrema attenzione a ciò che avviene evidentemente d'oltreoceano. E noi in questi giorni stiamo un po' guidando gli ascoltatori, no? Ieri abbiamo parlato di Corea del Nord, parleremo di Cina, un po' le grandi potenze o i paesi nei quali si proiettano molto gli Stati Uniti, cercheremo di vedere le elezioni americane attraverso le lenti appunto di quei paesi. Oggi ci mettiamo gli occhiali afghani, quindi cercheremo di capire meglio un po', insomma, come sia cittadini ma anche il governo afghano vede questo importante appuntamento elettorale. E poi, insomma, Africa e coronavirus, per esempio, sono due insiemi che non, fino ad ora non c'è quasi intersezione, no? Si è saputo veramente poco. Però so che non tanto di coronavirus, per quanto riguarda l'Africa, state diciamo, mettendo a fuoco una tematica che riguarda anche un paese in particolare, vero? Sì, torneremo in Nigeria. Guarda, sul coronavirus in Africa due considerazioni molto molto brevi. La prima, l'Africa in media, gli stati africani, 54 stati africani hanno una popolazione giovanissima, questo è il primo punto. Il secondo punto è che, salvo rarissime eccezioni, non ci sono strutture sanitarie comparabili a quelle occidentali e persino il tracciamento è estremamente difficile, quindi tutti i dati che arrivano dal continente africano vanno presi con le super molle. Noi torniamo in Nigeria perché ce ne siamo occupati anche ieri, facendo sentire le voci della protesta da Lagos. In realtà c'è un'attinenza col Covid, nel senso che l'hashtag che andava per la maggiore era End SARS. SARS non inteso come virus, ma come le forze antirapina della polizia nigeriana, che sono state smantellate dopo una serie di critiche feroci. Si erano macchiate di violenze, di addirittura uccisioni indiscriminate. Sono state smantellate, ma i poliziotti rimarranno sostanzialmente in carica e non andranno mai alla sbarra. Per cui i nigeriani stanno continuando a protestare. E ci sono stati, pare, colpi d'arma da fuoco da parte della polizia ieri sui manifestanti a Lagos, e quest'oggi il governatore dello stato del sud di Rivers ha vietato le manifestazioni. Ieri avevamo in qualche modo previsto che la situazione poteva diventare incandescente. Abbiamo la sensazione che da questa lotta molto specifica su un corpo di polizia molto contestato possa venire fuori, come dire, un afflato più generale democratico e per il rispetto dei diritti umani anche nell'importantissimo paese africano. Quindi torneremo anche su questo tema. Grazie Giampaolo Musumeci, come sempre tanti argomenti scottanti e molto approfonditi. L'appuntamento di oggi con Nessun Luogo Lontano a partire dalle 16. Noi ci fermiamo quando sono le 13:55 con la puntata di oggi di Effetto Giorno, con Valeria Bernardi in regia, Jacopo De Franchi in redazione. Ci risentiamo naturalmente domani, oltre che tra poco per l'aggiornamento alle 14. Ciao. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.